Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Un'evasione miliardaria scoperta dalla Guardia di Finanza, 62 indagati, perquisizioni in tutta Italia, al centro delle indagini un'azienda che aveva anche appalti con la Camera dei Deputati. 5 anni di carcere per omicidio colposo, arrivata la condanna per Oscar Pistorius, l'atleta paralimpico accusato di aver ucciso la fidanzata. Muore all'aeroporto di Mosca il capo della Total, il suo aereo in fase di decollo ha urtato uno spazzaneve il cui conducente era ubriaco. Omicidio della donna in centro a Milano, a fine agosto lei lo aveva denunciato e lui era stato indagato per lesioni, il padre racconta non voleva più vederlo. Sulla manovra siamo tranquilli, il dialogo con la commissione è fisiologico, dice il governo in vista dell'esame di Bruxelles, nello sblocca Italia IVA al 4% sui lavori di ristrutturazione. Il post di Grillo su immigrazione ed espulsioni divide il popolo del Movimento 5 Stelle, siamo lontani dalla Lega, dice il vicepresidente della Camera Di Maio. Incassi da record per Roma, Bayern, pienone all'Olimpico, schierati oltre 1000 agenti per garantire la sicurezza. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, se volete potete commentare alla nostra email effettogiorno@radio24.it oppure via sms durante la trasmissione al 349-238-6666. In apertura la maxi operazione di questa mattina della Guardia di Finanza. In diretta Monica Ceravolo, buongiorno. Buongiorno, si tratta di un'operazione non a caso ribattezzata miliardo, perché miliardaria, come avete anticipato, è l'evasione fiscale contestata dalla Procura di Roma. Al centro di questa indagine il consorzio di cooperative Gesconet, titolare tra gli altri di un appalto per le pulizie a Montecitorio da 1,5 milioni di euro. Appalti ottenuti in mezza Italia, forse anche grazie all'erogazione di mazzette. Indagando infatti la Guardia di Finanza ha scoperto una contabilità riservata, cifre con accanto i nomi di istituzioni su cui adesso si sta indagando. In questa storia sono coinvolte 250 società e 62 persone, tutte ritenute al corrente della truffa ai danni dell'erario. Il sistema di evasione funzionava a cascata attraverso il subappalto di lavori di facchinaggio e pulizie. L'ultima società della filiera, quella debitrice dei tributi, veniva fatta fallire, il debito non veniva saldato. È così che sono stati evasi in 11 anni 1 miliardo e 700 milioni di euro, parte dei quali finiti su conti correnti a San Marino e Lussemburgo. Ed è tutto. Grazie a Monica Ceravolo per questi aggiornamenti. Andiamo a Pretoria adesso per la sentenza per Oscar Pistorius, accusato, come sapete, di aver ucciso la sua fidanzata. Count one, culpable homicide. The sentence imposed is a maximum imprisonment of 5 years. On count two, the contravention. L'avete sentito, questa è la voce della lettura della sentenza. A seguire il processo c'è Lorenzo Simoncelli. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno da Pretoria, siamo appunto qui di fronte al carcere, al massimo penitenziario della capitale sudafricana, dove Oscar Pistorius è entrato da circa un'ora, portato in un van speciale solamente con lui, senza altri condannati. Adesso Oscar Pistorius sta effettuando le procedure di rito e quindi iniziando dalla presa delle impronte digitali, e poi verrà trasferito in una delle 6 celle singole presenti all'interno del penitenziario sudafricano, in modo tale che appunto soprattutto le prime settimane con certezza non avrà alcun contatto con altri prigionieri presenti nel carcere. Una sentenza che fa già discutere, perché sono appunto 5 gli anni di carcere che dovrà scontare, ma secondo il diritto penale sudafricano probabilmente solamente un sesto della sentenza sarà da scontare in prigione, quindi solamente circa 10 mesi, quando poi, in caso di buona condotta, Oscar Pistorius potrà lasciare il carcere di Pretoria e scontare il resto della pena, quindi circa 4 anni agli arresti domiciliari. Grazie a Lorenzo Simoncelli per questi aggiornamenti. Siamo alla politica economica italiana. Innanzitutto la manovra e lo sblocca Italia. Ci sono degli aggiornamenti importanti, tanto da un fronte quanto dall'altro. Sentiamo. Nel decreto Sblocca Italia spuntano a sorpresa nuovi incentivi per il recupero edilizio. Chi farà lavori in casa utilizzando i bonus fiscali del 50% per le ristrutturazioni e del 65% per il risparmio energetico pagherà l'IVA al 4% anziché al 10% come avviene oggi. Le risorse necessarie dovrebbero arrivare da un aumento sempre dell'IVA, ma sulla vendita di nuove costruzioni, che in questo caso passerebbe dal 4% al 10%. La novità è contenuta nel testo del decreto approvato dalla Commissione Ambiente della Camera. Il provvedimento da ieri è all'esame dell'Aula di Montecitorio, dove aspetta il parere sulle coperture da parte della Commissione Bilancio. Altre sorprese, sempre in materia fiscale, spuntano anche dalla legge di stabilità. Stando alle ultime bozze del provvedimento, per enti e fondazioni bancarie l'aumento del peso della tassazione sui dividendi viene anticipato al 1 gennaio del 2014. Un aumento retrattivo è previsto anche per i prelievi sui rendimenti dei fondi di previdenza complementare, sempre dal 2014, poi tornerà al 3,9% l'aliquota IRAP, mentre le deduzioni del costo del lavoro avranno efficacia a partire dal prossimo anno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il commento di Jean-Marie Delbo del Sole 24 Ore. I testi delle leggi di stabilità sono sempre pieni di sorprese, tanto più quando una bozza succede all'altra. Così nella seconda bozza della legge, disponibile da ieri, è ricomparso un fantasma, il fantasma di cui non si sentiva la mancanza della retroattività delle norme fiscali. Introdurre una norma retroattiva significa, in questo caso, prevedere un aumento fiscale già dall'anno in corso, cioè dal 2014. Si prevedono nuove aliquote oggi, ma non le si prevedono perché diventino operative domani, ma perché vadano a produrre degli effetti già sul ieri, in genere per rimpinguare le casse dello Stato. Per fondi pensione e fondazioni, la norma retroattiva ritorna in modo più diretto, con l'ennesima deroga alle regole dello statuto del contribuente. Mentre per l'IRAP si usa una formula più subdola e indiretta. La retroattività si fa scovare solo in via interpretativa, nel consueto tourbillon di commi, correzioni e rettifiche dell'ultima ora. Resta ovviamente la speranza che, come è comparsa nella seconda bozza, la retroattività scompaia nella terza, o meglio, ancora, nel testo del disegno di legge che dovrà essere esaminato dal Parlamento. Se ne gioverebbero naturalmente tutti i contribuenti, che non dovrebbero più fare i conti con un fantasma che si riteneva appartenere al passato. Ed è sulla manovra, oltre che sulle questioni interne, che si divide ancora una volta il Partito Democratico. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, divisioni sempre più accentuate nel PD nella settimana della Leopolda e della manifestazione della CGIL contro le modifiche all'articolo 18. Il premier Matteo Renzi auspica un partito della nazione e magari pensa anche al voto in primavera, con una rettifica dell'Italicum valido anche per il Senato e con un premio di lista al primo turno che avvantaggerebbe il PD. Secondo alcune simulazioni i Dem potrebbero prendere addirittura il 51%, ma ovviamente si tratta di calcoli sulla carta. Intanto la sinistra del partito è sempre più in rivolta. Il partito acchiappa tutto, non piace a Stefano Fassina, mentre Alfredo Dattorre conferma la partecipazione alla manifestazione CGIL. Pippo Civati pensa invece ad un partito suo che possa raggiungere il 5%. Di ieri la polemica di Gianni Cuperlo contro la Leopolda, definita un partito parallelo, mentre Renzi nega e invita tutti, apre alla collaborazione sulla legge di stabilità il governatore Dem del Lazio Nicola Zingaretti e spiega: le regioni non sono arrabbiate ma preoccupate per i cittadini. A te, Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. L'altro fronte politico riguarda naturalmente il Movimento 5 Stelle. Da un lato le posizioni in tema di immigrazione, dall'altro la campagna di epurazioni che va avanti passando per le scomode alleanze in Europa. Nel Movimento 5 Stelle crescono le polemiche per le ultime uscite di Grillo. Ad accendere la miccia ieri l'annuncio dell'ennesima espulsione. Questa volta è toccato a Giorgio Filosto, Orazio Ciccozzi, Pier Francesco Rosselli e Daniele Lombardi, i quattro attivisti che avevano preso la scena al Circo Massimo per chiedere maggiore trasparenza. Hanno disatteso al loro compito di responsabili della sicurezza del palco, così Grillo ha motivato la scelta, da molti non condivisa. Ad esasperare il clima poi le uscite del comico in tema di immigrazione. Chi entra in Italia, ha detto, con i barconi deve essere identificato e sottoposto a visita medica. I profughi vanno accolti, i clandestini rispediti da dove venivano. Ciliegina sulla torta, le scelte in Europa. UKIP e Movimento 5 Stelle hanno ricostituito il gruppo grazie all'adesione del polacco del KNP, Ivan Skiewicz, balzato agli onori della cronaca per aver detto che picchiare la moglie, in certi casi, la aiuterebbe a tornare con i piedi per terra. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È morto mentre stava ripartendo da Mosca l'amministratore delegato della Total. Si è schiantato contro uno spalaneve presente sulla pista di decollo, l'aereo privato su cui si trovava Christophe de Margerie, presidente e direttore generale della compagnia petrolifera francese Total. Insieme a lui altre tre persone hanno perso la vita. L'autista del mezzo era sotto l'effetto dell'alcol, secondo quanto riportato dalle autorità russe, che hanno aperto un'inchiesta a cui parteciperanno anche le autorità francesi. L'incidente è avvenuto nell'aeroporto di Vnukovo, a Mosca. Dopo lo scontro, l'aereo, un Falcon 50, ha preso fuoco e, pur non verificandosi alcuna esplosione, per le persone all'interno non c'è stato il tempo di scendere. Il conducente dello spalaneve è rimasto gravemente ferito ed ora è in stato di shock. Il top manager era di ritorno a Parigi dopo un incontro a porte chiuse tra gli investitori stranieri e il premier Medvedev sulle sanzioni decise dai governi occidentali nei confronti della Russia. «Abbiamo perso un vero amico del nostro paese, ne manterremo un bel ricordo», sono state le parole inviate al presidente francese François Hollande da Vladimir Putin, che in un telegramma ha definito De Margerie un importante uomo d'affari, che era all'origine di molti dei grandi progetti per una fruttuosa cooperazione a lungo termine tra Francia e Russia nel settore energetico. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E se n'è andato invece dopo una lunga malattia un altro personaggio pubblico di tutt'altro genere. Parliamo dello stilista domenicano Oscar De La Renta. In diretta abbiamo con noi la collega del Sole 24 Ore, responsabile di Moda 24, Paola Bottelli. Paola, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, che cosa rappresentava nel mondo della moda e degli stilisti De La Renta? Allora, Oscar De La Renta era il decano degli stilisti americani, quindi come se fosse un po' il nostro Giorgio Armani o il nostro Valentino, seppur Valentino si è ormai ritirato da alcuni anni. De La Renta vestiva le First Ladies, a partire da Nancy Reagan a Hillary Clinton, vestiva le grandi celebrità di Hollywood, perché la sua specializzazione è quella dell'abito da ballo, che è un segmento di mercato che non esiste in Italia, ma nemmeno nel resto d'Europa, essere sinceri, quegli abiti lunghi, molto scenografici, che invece in America si indossano normalmente per le serate, per le raccolte fondi di beneficenza, sono degli eventi molto comuni in tutti gli Stati Uniti. Oscar De La Renta ha firmato gli abiti da sposa di alcune delle più celebri spose americane e non americane, visto che l'ultima è la moglie di George Clooney, che ha sposato nei giorni scorsi a Venezia con un abito di Oscar De La Renta. Il suo business non è gigantesco, intorno ai 150 milioni di dollari, quindi diciamo possiamo definirla una media azienda, però il suo status in America era assolutamente il top, insieme a Diane von Furstenberg, che è l'altra icona del fashion system a stelle strisce. Grazie alla nostra Paola Bottelli del Sole 24 Ore, e noi passiamo al calcio prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade. Naturalmente riflettori puntati su Roma-Bayern per tanti aspetti, per uno stadio pieno, per la sicurezza imponente e naturalmente per il calcio giocato. Dario Ricci. Sì, parliamo di top anche in questo caso, caro Simone, perché sicuramente serata da campioni all'Olimpico, stadio tutto esaurito da giorni, 65.000 spettatori, oltre 3 milioni di euro di incasso e soprattutto una partita che pesa parecchio per la Roma. Ricordiamo la classifica del gruppo E: il Bayern Monaco a 6 punti, la Roma 4, il Manchester City 1 e il CSKA Mosca 0. E allora partita di questa sera che va a incrociare con quella delle 18 di Mosca, CSKA contro City. La Roma avrà il vantaggio di giocare dopo questa sfida contro i tedeschi e magari fare anche qualche calcolo, chissà che non ci scappi una sorpresa a Mosca. Di fatto però Servono soprattutto i tre punti per sperare, per puntare in una qualificazione in quello che è uno dei gironi di ferro di questa prima fase di Champions League. Rudy Garcia si affida al tridente Gervinho, Iturbe e Capitan Totti, pronto a lanciare appunto le due frecce sulle fasce. Staremo a vedere, fischio d'inizio alle 20:45, chiaramente nei GR serali e in effetto notte tutti gli aggiornamenti. Certo, naturalmente, comunque 1100 agenti schierati e poi l'arrivo all'Olimpico, il ritorno all'Olimpico ancora una volta di Pep Guardiola. Sì, insomma, questo... uno che ha sempre avuto Carletto Mazzone come maestro e come suo mentore sempre designato. Ha giocato in giallo-rosso, ha vinto all'Olimpico una Champions guidando il Barcellona, quindi tante emozioni, speriamo che magari perda un po' di lucidità, no? Speriamo che perda un po' di lucidità e speriamo che questa vicinanza, come dire, tra l'allenatore del Bayern e la Roma faccia sì che incidenti alla fine non ce ne siano. Nonostante... Speriamo soprattutto quello, perché l'ultima partita europea all'Olimpico, quella col CSKA a Mosca, proprio da questi tafferugli incidenti è stata rovinata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Un'evasione miliardaria scoperta dalla Guardia di Finanza, 62 indagati, ci sono perquisizioni in tutta Italia, al centro delle indagini un'azienda che aveva anche appalti con la Camera dei Deputati. 5 anni di carcere per omicidio colposo, è arrivata la condanna per Oscar Pistorius, l'atleta paralimpico accusato di aver ucciso la fidanzata, probabilmente sconterà solo 10 mesi. È morto all'aeroporto di Mosca il capo della Totale, il suo aereo in fase di decollo ha urtato uno spazzaneve il cui conducente era ubriaco. L'omicidio della donna in centro a Milano, a fine agosto lei lo aveva denunciato e lui era stato indagato per lesioni, il padre racconta non voleva più vederlo. La manovra, siamo tranquilli, il dialogo con la commissione fisiologico, sono parole del governo in vista dell'esame di Bruxelles. Nello sblocca Italia, IVA al 4% sui lavori di ristrutturazione. Dopo il post su immigrazione ed espulsioni, Grillo interviene anche sull'economia. Fuori dall'euro c'è salvezza, dice, ma il tempo è scaduto, riprendiamoci la sovranità monetaria. Incassi da record per Roma Bayern, Pianone all'Olimpico, schierati oltre 1000 agenti per garantire la sicurezza. Un paio di notizie appena arrivate, innanzitutto una che riguarda i mercati e riguarda Mediobanca, la Banca Centrale della Repubblica Popolare Cinese, insomma la Banca Centrale Cinese ha dal 14 ottobre il 2%, oltre il 2% di Mediobanca, è quanto emerge negli aggiornamenti Consob sulle partecipazioni rilevanti. E l'altra notizia in realtà riguarda sempre i mercati, perché è una giornata particolarmente positiva per le borse, un più 2,27% sul FTSE MIB, un più 2,20% sul FTSE OSHER, torneremo a parlarne come sempre nell'appuntamento delle 13:30. Saluto intanto Maurizio Buccarella, il Movimento 5 Stelle, senatore, al momento capogruppo, se non sbaglio, Buccarella, no? Perché dato che cambiate ogni 3 mesi perdo un po' i conti. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. No, al momento io non sono più capogruppo, lo sono stato per 3 mesi, l'attuale capogruppo è il collega Alberto Airola, da pochi giorni. Allora, benvenuto Buccarella, l'abbiamo chiamata perché portava anche la sua firma l'emendamento con il quale, lo ricorderanno tutti, è stato poi approvato, con il quale si aboliva il reato di immigrazione clandestina, il che segnala evidentemente una sua sensibilità e una sensibilità di un certo tipo al tema. Io vorrei capire come giudica il post arrivato ieri da Beppe Grillo. Sì, le rispondo subito. Intanto quell'emendamento abrogativo, cioè è bene ricordare anche agli ascoltatori che il cosiddetto reato di clandestinità tuttora è in vigore, cioè non è stato abrogato, perché lì abbiamo votato una legge delega che delegava appunto il governo entro 8 mesi a partire dal 2 maggio ultimo scorso per adottare decreti legislativi per depenalizzare una serie di reati, fra questi anche quello cosiddetto di immigrazione clandestina. Quindi il reato è ancora in vigore, magari questa è una notizia che molti ascoltatori non conoscono, perché danno per scontato che sia abrogato. Ogni conseguenza già ognuno la può trarre, no? Nel senso che evidentemente la vigenza di quell'ipotesi criminosa che c'era dal 2009 fino ad oggi non è servita a nulla, e di fatto lo spirito, diciamo così, abrogativo era di tipo assolutamente pragmatico, cioè avevamo la consapevolezza, confermata dall'esperienza delle aule di giustizia, che quel reato non serviva a nulla, cioè non serviva né a scoraggiare l'arrivo di migranti né a facilitarne l'espulsione, perché la sanzione prevista del reato tuttora vigente, ripeto, è un'ammenda da 5 a 10 mila euro, sì. Cifre che peraltro lo Stato non ha mai ricavato neanche un euro da queste cifre qua. Come era anche prevedibile del resto. Senta Buccarella, però rimaniamo sulla questione più puramente politica. Le ripeto, un suo giudizio su quel post di ieri che appunto era molto duro, sì. No? Diceva rispediamoli a casa. Prego. No, non diceva rispediamoli a casa. Più che duro, io direi molto chiaro e fuori di ipocrisia. Un po' come era anche lo spirito di quell'emendamento. Cioè, secondo noi, non bisogna cadere nella trappola ideologica che viene cavalcata abilmente dalla cosiddetta destra, dalla cosiddetta sinistra, del fare del dibattito dell'immigrazione un terreno dove si parla per l'ennesima volta la pancia dei cittadini. Dire i clandestini devono essere espulsi dall'Italia non è dire nulla di nuovo, perché già così è o dovrebbe essere. Dire i profughi vanno accolti e tutelati e dire una cosa giusta, ragionevole e sacrosanta è che rappresenta già la realtà attuale del nostro ordinamento nazionale. Ora, al di là delle inefficienze sistematiche del sistema giustizia amministrativo, che ha molte lacune, rallentamenti e altro, però, come dire, Grillo lì ha solamente una volta, c'è cioè l'ennesimo tentativo di uscire fuori dall'ipocrisia che della Lega, quando ormai vira su toni evidentemente veramente razzistici nel cavalcare uno degli argomenti, uno dei pochi argomenti su cui la Lega riesce ancora a dare una propria immagine di sé politicamente, ma sì anche specularmente dall'altro lato della politica partitica, quella del Boldrinian sounding, a me piace definirlo, che è un richiamo a un'accoglienza a 360 gradi che evidentemente non è neanche questa ragionevole. Senta Buccarella, però il posto di Grillo è condivisibilissimo, secondo me. È condivisibilissimo. Senta, però tecnicamente come si fa? Cioè, nel senso, Grillo dice i clandestini vanno rispediti da dove vengono. Come sa lei, questo rappresenta un grosso problema, un problema che abbiamo sempre avuto, nel senso che arrivano magari senza documenti, dichiarano che vengono da un paese oppure ne vengono da un altro, o a volte si dichiarano profughi quando non lo sono, o a volte magari sono profughi e non lo sanno e non lo dichiarano, e insomma rimandarli indietro è un po', no, un concetto generale che però non vuol dire niente nell'applicazione pratica. No, sì, può vuol dire niente, può vuol dire tutto a seconda appunto di come gli strumenti operativi vengono adottati insieme alle leggi. Intanto è bene sapere che da una settimana è in corso un'operazione in ambito comunitario, si chiama Mos Maiorum, che è finalizzata all'identificazione in ambito europeo e volta poi alla successiva espulsione di tutti gli immigrati irregolari, cioè non, diciamo, chiamiamoli clandestini, usando questa parola che neanche a me piace, francamente. E quindi questo appunto nell'ambito del Consiglio d'Europa che attualmente stiamo presiedendo in maniera secondo me non molto degna. Comunque, a parte questo, qui in realtà occorrerebbe mettere mano al testo unico dell'immigrazione, una legge del 98 che ha subito nel corso degli anni numerosi interventi legislativi raffazzonati in una materia che diventa complicatissima anche per interpreti del diritto. La domanda che dobbiamo porci è: ma riuscirebbe oggi la politica italiana, le forze qui in Parlamento, il governo, qualunque esso sia, a ragionare su queste cose in una maniera deideologizzata? Perché il vero nemico dell'Italia e degli italiani, secondo me, è questo. Cioè, chi parla alla pancia e, ripeto, sollecitando i sentimenti di paura oppure del buonismo irragionevole, non fa l'interesse degli italiani. Il fenomeno immigratorio lo sappiamo, è di natura di tipo epocale, probabilmente siamo solo all'inizio di un qualcosa che può anche andare peggio alla luce di quello che sono le previsioni in tema anche di cambiamenti climatici, oltre che quello delle guerre e quant'altro. Quindi occorrerebbe ragionare in ambito europeo e non più nazionale per gestire al meglio, nella tutela dei diritti umani delle persone che sfuggono dalle carestie e dalle guerre, ma anche per riuscire a dare una soluzione sostenibile per i paesi dell'Europa che, come il nostro soprattutto, vivono un momento di crisi con cui bisogna fare i conti, senza appunto rischiare di alimentare addirittura vene razzistiche nell'opinione pubblica. Senta Buccarella, un'ultima domanda. Lei dice, così come ha detto anche Di Maio oggi, vicepresidente della Camera, uno degli esponenti di spicco del Movimento, dice siamo lontani dalla Lega, però da una parte ieri la presa di posizione sui clandestini e sull'immigrazione, oggi questo nuovo post nel quale Grillo dice fuori dall'euro o default, fuori dall'euro c'è salvezza. Insomma, capirà che le parole d'ordine risuonano molto simili a quelle di Salvini. Sì, ma indubbiamente ci possono essere delle similitudini in questo linguaggio, in certi assunti, così come in passato può essere accaduto anche con riferimento ad altro. Similitudini e anche convergenze, Buccarella, similitudini e anche convergenze ci possono essere. Ma noi le convergenze le cerchiamo sempre quando, come dire, vogliamo parlare delle cose concrete. Adesso non vorrei dire una banalità, però veramente. Quindi cioè, sull'uscita all'euro. Il tempo di parlare della situazione. Quindi sull'uscita all'euro. Il primo titolo del suo notiziario è relativo a un nuovo scandalo di corruzione. E allora, falso in bilancio, noi facciamo un mantra. Sì, perché sì, ma stiamo parlando dei rapporti tra voi e la Lega. Sì. Sull'uscita dall'euro si può trovare la convergenza con la Lega? Ma Grillo penso che abbia già risposto con un tweet a Salvini dicendo: noi le nostre posizioni sono queste, se vogliamo parlarne parliamone, ma certo noi non dobbiamo... Quello che ci differenzia però è che ricordare che la Lega è stata al governo per un decennio negli ultimi anni con le forze del centrodestra. Allora sentirci, come dire, capisco, ammiro quasi l'abilità politica, dialettica di Salvini e della dirigenza leghista che cerca di recuperare il terreno perso negli ultimi anni dopo gli scandali, però, come dire, secondo me sono meno credibili rispetto a una forza nuova e libera come siamo noi, che con tutti gli errori che può fare, come dire, non ha da dover tener conto ad alleanze o a promesse fatte per future alleanze in occasione delle prossime elezioni. Grazie a Maurizio Buccarella, senatore del Movimento 5 Stelle. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Evasione da oltre un miliardo scoperta dalla Guardia di Finanza, 62 indagati. 5 anni di carcere per omicidio colposo e questa è la condanna per Oscar Pistorius. È morto all'aeroporto di Mosca in un incidente aereo il capo della Total. Omicidio della donna in centro a Milano, a fine agosto lei lo aveva denunciato e lui era stato indagato per lesioni. Dopo il post su immigrazione ed espulsioni, Grillo interviene sull'economia. Fuori dall'euro c'è salvezza, ma il tempo è scaduto. La borsa. Borse in diretta. Una buona giornata, più 2,29% il FTSE MIB, più 2,20% il FTSE O'Share, Francoforte guadagna l'1,5%, Parigi l'1,71%, Londra allo 0,93%, positivi tutti i bancari. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Qua c'è la manina della BCE. Sì, ci sono rumor secondo i quali potrebbe scendere in campo la Banca Centrale Europea per sostenere l'economia della zona euro, in particolare si è detto potrebbe acquistare obbligazioni corporate, anche se in verità poco fa è stato proprio l'Istituto Centrale a smentire questa eventualità. Comunque gli investitori continuano a scommettere che la BCE possa far qualcosa e dunque c'è questo recupero di tutte le borse europee. Questo per quanto riguarda il quadro generale, per quanto riguarda i singoli titoli, al di là dei bancari complessivamente bene, Monte dei Paschi su tutti, più 8,74%, Popolare Milano più 5,8%, ci sono altri titoli in particolare da segnalare? Sì, guarda, adesso ha un po' rallentato il passo, ma questa mattina era arrivato a guadagnare il 5% IUX perché la concorrente britannica ASOS ha fornito indicazioni molto positive, soprattutto per l'anno venturo, dopo aver dato i dati dell'anno fiscale che si è appena chiuso, è arrivato a guadagnare il 12% e quindi ha tirato su anche la stessa IUX. Poi va bene Mediaset che segna un più 5,5%. E ci sono motivi particolari per questo? Non ci sono motivi, spesso amplifica quelli che sono i movimenti del mercato, ormai come fanno un po' le banche che hai già detto tu, che corrono abbastanza all'impazzata, segnano rialzi di oltre il 4% con MFS che segna, è arrivata a salire di oltre il 9% dopo la debacle dei giorni precedenti e mentre peraltro si avvicina all'attesa per i risultati di quelli che saranno gli stress test che verranno annunciati domenica prossima, ma gli investitori evidentemente ritengono che siano positivi. Ci chiedete del titolo Total dopo la morte dell'amministratore delegato, un più 1,79% in questo momento. Grazie ad Eleonora Micheli, Radio Cori Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Saluto Giulia, buongiorno, avvocato, fondatrice insieme a Michelle Hunziker della Fondazione Doppia Difesa, autrice insieme alla stessa Hunziker di un libro Con la scusa dell'amore. Avvocato, buongiorno, benvenuta. Grazie dell'invito. Tutte e due questioni, sia la Fondazione Doppia Difesa che il libro con la scusa dell'amore, dedicati al tema della violenza nei confronti delle donne. Con lei vogliamo tornare su questa vicenda avvenuta in centro a Milano e che vi abbiamo anche ampiamente raccontato nella giornata di ieri, l'omicidio di una donna che è stata strangolata dal suo compagno. A fine agosto si è preso nelle scorse ore, lei lo aveva denunciato e lui era stato indagato per lesioni. Ora, il punto è questo, avvocato, è chiaro che in quello che succede, nelle dinamiche tra due persone non possiamo entrare, e quello che apprendiamo dalle notizie che circolano naturalmente, che sono sempre frammentarie, ci raccontano di una realtà piuttosto degradata nel complesso, insomma, nonostante la collocazione dell'appartamento, quindi uso di cocaina, alcolismo e via dicendo. E però la mia domanda è questa: non dovrebbero intervenire dei meccanismi di salvaguardia nel momento nel quale scatta una denuncia? Allora, innanzitutto io direi che non vorrei assolutamente che questa situazione di degrado che ho visto è stata anche evidenziata sui mass media potesse far pensare che in qualche modo la violenza avviene solo in quegli ambienti, perché esistono violenze brutali anche nei 5 stelle lusso, quindi non è un problema sociale né un problema di ceto diverso. Detto questo, per rispondere alla sua domanda sulla denuncia, io credo che sia essenziale che quando viene depositata una denuncia ci sia un'attenzione specifica per riuscire a comprendere che la denuncia non è un atto di isterismo da parte di una donna, ma è una richiesta di aiuto. Queste denunce invece spesso giacciono nelle procure per mesi e mesi, se non per anni. Molte volte assistiamo a morti di donne proprio in attesa di processo. In questo caso qualcuno tra l'altro diceva che era stata ritirata la denuncia. Ecco, non so se questo è avvenuto perché le notizie sono frammentarie. Anche lì il magistrato, quando c'è una remissione di querela, cioè il ritiro della denuncia, deve chiamare la donna e verificare se sta ritirando la querela autonomamente o se è spinta, sollecitata, pressata dal suo uomo. Quindi molto si può fare. Pressata dal suo uomo, e a volte, avvocato, perché qua c'è anche una questione culturale da sottolineare, a volte addirittura pressata da se stessa, no? Perché in certi casi c'è una sorta di sudditanza psicologica nei confronti della persona che commette la violenza. È assolutamente corretto quello che lei dice. Guardi, io dico sempre che la violenza come seconda faccia alla discriminazione. Vede, quando un uomo uccide è come se distruggesse un oggetto: se un oggetto non ti serve lo distruggi, se una donna non va bene la uccidi. Alla base c'è sempre la discriminazione, ecco perché io sono convinta che la lotta contro la violenza nasce se riusciamo a fare una lotta contro la discriminazione. Non sono due problemi distanti, sono due problemi che devono viaggiare insieme. Quindi quello che lei dice è verissimo: la donna spesso si autocolpevolizza, i sensi di colpa della donna la inducono a credere nell'amore. Il libro che lei citava, Con la scusa dell'amore, è proprio un libro che vuole enfatizzare questo concetto. Con la scusa dell'amore si induce spesso la donna a fare una serie di cose, tra queste le remissioni di querela, invitandole al sentimento, all'amore, mentre ovviamente il sentimento è tutt'altra cosa. Insisto con la domanda iniziale e poi la saluto perché so che sul lavoro è in tribunale. La domanda iniziale è questa: ma non esistono degli automatismi che scattano in questo caso? Cioè, lei diceva il magistrato deve convocare, probabilmente la polizia deve indagare più a fondo, soprattutto in questi casi, deve mettere sotto particolare attenzione, ma non esistono dei meccanismi per legge che obbligano le forze dell'ordine o l'ordine giudiziario a fare questo? Guardi, funziona così, cerco di spiegarlo in maniera proprio chiara anche per chi non conosce i meccanismi giuridici. Quando si fa una denuncia, questa denuncia dovrebbe essere immediatamente letta e valutata. Purtroppo i tempi della giustizia sono lentissimi, quindi non è detto che ci sia un'immediata valutazione della denuncia. Dopodiché, se c'è anche una lettura, ma nell'immediatezza si ritiene che non ci sia un pericolo, questa denuncia entra in un percorso lunghissimo che può durare degli anni. Quindi il vero problema è che spesso queste denunzie tardano ad essere valutate perché non vengono apprezzate nella loro gravità. E siccome purtroppo c'è anche un altro fenomeno, cioè che a volte le denunzie magari non vengono fatte per casi effettivamente gravi, a volte può accadere che in una grande quantità di denunzie non si riesca a riconoscere quella veramente grave. Però Ecco perché io sono dell'idea che servirebbero dei pool specializzati sia nella magistratura sia nelle forze dell'ordine. Per quello che dice lei, quando lei mi chiede scatta un meccanismo, deve essere l'occhio umano che deve segnalare questa è una richiesta di aiuto. E quindi una sorta di corsia preferenziale, insomma, no? Sì, assolutamente, per denunce di questo genere. Se c'è il rischio di una incolumità personale ci si deve attivare subito. Invece questo fatto che le denunce diventano 2, 3, 4 e non succede niente, ovviamente mette a rischio la vita. Grazie a Giulia Bongiorno, avvocato, per averci aiutato, averci dato anche questi chiarimenti. Noi torniamo all'estero adesso, iniziamo dalla Libia, perché circa 40 jihadisti sono stati uccisi nei bombardamenti dell'aviazione delle ultime 24 ore a Bengasi, lo riferiscono fonti militari libiche citati dai media locali. Alcuni di loro sono morti sotto le macerie degli edifici distrutti dai bombardamenti, in particolare nelle zone di Sidi Mansour e Khar Yunis. E aerei della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti sono tornati a colpire postazioni dello Stato Islamico, dell'ISIS, a Kobane, mentre si registrano nuovi scontri fra jihadisti e miliziani curdi. Gli Stati Uniti stessi intanto hanno accolto con favore la decisione turca di far entrare le forze curde dei Peshmerga iracheni in Siria. Il commento di Alberto Negri. La decisione della Turchia di permettere ai Peshmerga iracheni di combattere con i fratelli curdi assediati dal califfato è arrivata dopo che il governo islamico li ha bastonati duramente per impedire che passassero la frontiera, provocando un'ondata nazionale di proteste con 35 morti. Il messaggio di Ankara ai curdi è questo: fatevi pure ammazzare contro il califfato, ma non sperate di ottenere nulla, né autonomia né tantomeno indipendenza. La Turchia ha come obiettivo la caduta di Assad e contenere le sue minoranze, non eliminare lo Stato islamico. Washington e l'Occidente devono decidere chi deve combattere sul campo. I riluttanti alleati degli americani non hanno nessuna voglia di farlo. Questa guerra appare sempre meno convincente. Il califfato sembra una sorta di mostro provvidenziale, utile allo scopo. Prima di essere eliminato, deve crearsi una situazione in cui viene resa possibile una nuova entità statuale sunnita in mezzo alla Mesopotamia, a cavallo tra Siria e Iraq. E forse allora si comincerà a combattere davvero. È stato intanto confermato, visto che parliamo di Turchia, con la pubblicazione del programma, il viaggio del Papa il prossimo mese proprio in Turchia. La visita durerà 3 giorni, dal 28 al 30 novembre, farà tappe ad Ankara e Istanbul. Oltre agli incontri istituzionali e quelli ecumenici col Patriarcato ortodosso, il Papa visiterà anche la Moschea Blu e Santa Sofia. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America, America, shed his grace on thee. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, abbiamo chiuso la settimana con alcuni problemi di volatilità, anche ieri del resto abbiamo visto molta volatilità, soprattutto sui mercati europei, però in America le cose sono leggermente più, diciamo, stazionarie. Vedremo poi come andrà la settimana, ma il tema di oggi, direi per una volta rassicurante dal punto di vista delle notizie, riguarda Ebola, o Ebola come si dice qua in America. Quali sono le notizie di cui si parla? Beh, partiamo dal World Health Organization, che ha rilasciato un rapporto ieri in cui si dice che il Senegal e la Nigeria sono libere da Ebola, quindi l'epidemia, che ha il suo epicentro in Liberia, non si è allargata a questi altri paesi, che sono paesi molto importanti, paesi molto grandi, soprattutto la Nigeria. Ma la cosa di cui si è parlato molto anche ieri, beh, è la storia che le 50 persone, la notizia l'abbiamo avuta già domenica, ma le 50 persone che erano state messe in quarantena perché erano state molto vicine a Eric Duncan, che è quel personaggio liberiano, il quale poveretto era andato all'ospedale di Dallas, al Presbyterian Hospital, con i disturbi tipici di Ebola, devo dire difficili da identificare perché poi sono influenza, febbre, un po' di vomito, lo rimandarono a casa, come ricorderete, si scoprì che poi invece aveva contratto la malattia e poi è morto. Ebbene, le 50 persone dopo il periodo di quarantena non hanno contratto Ebola, quindi l'epidemia ha dei percorsi misteriosi, perché la fidanzata, persino la fidanzata che era molto vicina a lui, lo ha aiutato quando vomitava, quindi è venuta a contatto coi fluidi, non ha preso l'Ebola, però le due infermiere che erano super protette e che erano con lui ad aiutarlo in ospedale invece l'hanno contratta, sono sotto cura e l'auspicio di tutti naturalmente è che possano salvarsi. Ma è attorno a questo che negli ultimi giorni in America si è sviluppato un dibattito che alcuni definiscono eccessivo. Partiamo da Barack Obama. There's a serious disease, but we can't give in to hysteria or fear, because that only makes it harder to get people the accurate information they need. Ecco, Obama è il primo a intervenire con un messaggio di calma. Dice: Ebola è una malattia grave, ma non possiamo cedere all'isteria o alla paura, perché renderebbe solo più difficile fornire alle persone le informazioni di cui hanno bisogno. Dobbiamo farci guidare dalla scienza e ricordare i fatti principali. Ecco, il problema è che la scienza ha commesso degli errori. Lo stesso centro per il controllo delle malattie americano, un centro federale, ha commesso degli errori. Sentiamo Anthony Fossi del National Institute of Health. The guidelines that were originally on the CDC were WHO guidelines that worked very well for many, many years. Now when you have patients here, Anthony Fauci, come diremmo in italiano, rappresenta la parte istituzionale a cui è data responsabilità di far sì che dal punto di vista medico-scientifico questa malattia resti sotto controllo. E Fauci dice: beh, abbiamo lavorato finora secondo i protocolli del World Health Organization, però presto prenderemo provvedimenti nuovi, ancora più rigidi di quelli che abbiamo oggi. Uno degli annunci che abbiamo avuto ieri che il Pentagono ha creato una equipe speciale per affrontare possibili nuovi casi di Ebola negli Stati Uniti. Il segretario della difesa in persona, Chuck Hagel, è intervenuto e ha ordinato al comandante del Northern Command, il generale Chuck Jacoby, di preparare 20 infermiere, 5 dottori, 5 istruttori specializzati in malattie infettive. Ma la polemica, Obama parla di isteria e dà ragione, perché i media americani su questo sono impazziti, hanno dato l'impressione che ci fosse davvero un rischio per tutti, cosa che in realtà non c'è, perché come abbiamo visto da queste 50 persone che sono state vicine a un paziente e non sono state contaminate, beh, l'epidemia non è poi di così facilissima diffusione. Ma chi lavora negli ospedali, soprattutto le infermiere, sono preoccupate. Sentiamo Jane Rose, che è la co-presidente dell'Associazione Nazionale delle Infermiere, devo dire un centro di potere molto importante negli Stati Uniti. An apology is always nice, but a corporate CEO apology doesn't save lives. Where we go from here is to listen to us, which we have been begging for since the get-go. Ecco, Jan Ross prende atto che ci sono state scuse degli ospedali, che ci sono stati riconoscimenti di errori da parte di varie istituzioni, però non perdona. E devo dire, ha parlato in modo molto franco e diretto nel corso di interviste televisive americane, cioè le scuse di oggi non salvano vite, purtroppo. È il momento di ascoltare chi lavora negli ospedali, e di ricordare cosa abbiamo chiesto di fare. Fin dall'inizio abbiamo richiesto equipaggiamenti, addestramento, non siamo state ascoltate. Oggi abbiamo la prova che avevamo ragione. Non siamo preparati, le infermiere non sono preparate. Ecco, io credo che questa affermazione abbia fatto molto danno all'amministrazione Obama, perché la questione non è soltanto medica, ma è anche politica. A novembre ci sono importanti elezioni, i repubblicani ne approfittano per attaccare Barack Obama e l'amministrazione, accusandolo di nuovo, come era stato attaccato prima in politica estera, di incompetenza. Sentiamo Marsha Blackburn, deputata repubblicana del Tennessee. What we were hopeful was that we were going to have someone who had the experience not only from the medical community but in emergency response. La Blackburn si lamenta di una scelta in effetti dubbia da parte del presidente americano, quella di aver nominato Ron Klain come, diciamo, zar dell'Ebola. Ron Klain è un personaggio politico di secondo piano. Dovendo nominare qualcuno di responsabile per il coordinamento generale di questa operazione, si poteva pensare a un ex senatore, si poteva pensare a un ex ministro, e invece Ron Klain è un operatore politico di secondo livello. Quindi la Marsha Blackmore dice: speravamo di avere qualcuno che avesse un qualche tipo di esperienza non solo di medicina ma nella risposta a situazioni di emergenza come questa, qualcuno come il generale Honoré o l'ex senatore Bill Frist. La questione ha una valenza di politica interna dunque per queste elezioni in arrivo, ma anche di politica internazionale. L'ultima notizia qual è? Che il New York Times ieri ha pubblicato un editoriale in cui ha apprezzato quello che Cuba sta facendo per Ebola. Una nazione piccola, dice il New York Times, una nazione in difficoltà con cui non abbiamo relazioni diplomatiche. Ebbene, Cuba ha compiuto uno sforzo straordinario per essere all'avanguardia nell'aiutare questi paesi africani. È giunto il momento che l'America riallacci le relazioni diplomatiche con Cuba. Come vedete, il passaggio da una malattia, dalle paure per un'epidemia, alla possibile soluzione di crisi diplomatiche internazionali vecchie di 60 anni, beh, forse è più breve di quello che molti pensano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Gwen Stefani ha lanciato un nuovo single da titolo Baby Don't Lie. Si tratta del primo nuovo brano in 8 anni di questa cantante, sarà parte di un album che potrebbe uscire già a dicembre. Un'anticipazione qui su America 24, Gwen Stefani, Baby Don't Lie. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24. Ed è tutto, perfetto giorno, un ringraziamento a Filippo Aureggi in regia, Anita Panizza in assistenza e redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, effetto giorno @radio24.it per scriverci, ci risentiamo tra un attimo con GR24, la trasmissione torna domani alle 13.00.